7 agosto, ore 10:16, sono in via della Storta, è una strada alternativa che si fa quando il raccordo anulare promette esperienze molto negative. Io già immagino, così anche un po' dai primi commenti, le domande, ma perché insomma questi file audio che tutto sommato sono pesanti, tutto sommato è anche un po' faticoso pubblicarli perché devono essere prima convertiti in Windows Media Player. In realtà io sto usando uno Psion come registratore vocale digitale, poi però richiede un minimo di conversione anche perché poi devono essere fruiti in streaming. Beh, la risposta è un po' nel percorso, nel punto d'arrivo soprattutto di questo blog, che è un rifiuto di qualsiasi forma di comunicazione strutturata. E lo dico da comunicatore, io sono una persona che adora la comunicazione strutturata, mi piace scrivere e scrivere è anche l'80-90% del mio lavoro, però diciamo che il file audio è qualcosa di molto più istintivo, non ci sono obblighi di rispettabilità nella forma, ci sono questi periodi che iniziano, poi finiscono, ci sono dei congiuntivi che saltano pericolosamente. Però il punto d'arrivo è proprio l'estremo opposto della comunicazione strutturata, che è il suono inarticolato. Ce ne saranno, prometto che ce ne saranno, non saranno solo miei, per fortuna. Ed è un rifiuto della comunicazione strutturata che nasce dal fatto che questa comunicazione, nata come qualcosa che dovrebbe risolvere i problemi, in realtà oggi li crea. Soprattutto grazie o per colpa dei media, o media, non so, poi ci sono quelli che preferiscono una condizione piuttosto che l'altra, i media che hanno un grosso limite proprio nel fatto di essere media, il fatto di essere mediazione, mentre il suono inarticolato è comunicazione immediata. Quindi è in quella direzione che voglio andare, perché proprio a causa di questa comunicazione al servizio fondamentalmente degli interessi politici, economici, che siamo arrivati secondo me fino a questo livello di degrado, siamo arrivati a questa industria della menzogna in cui ci troviamo, dove tutto sommato molte persone hanno capito che piuttosto che fare qualcosa di buono è meglio dire di aver fatto qualcosa di buono, è più economico anche se poi è falso. Piuttosto che realizzare un buon prodotto è meglio investire un sacco di soldi in pubblicità dove si dice di aver fatto un buon prodotto che poi si rivela pessimo. Cioè, questo è il vero business, la parola, la menzogna per fare i soldi che non si è in grado di fare attraverso il valore.